Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Eccoci tornati qua in diretta tutti i sabati mattina fino alla prossima estate, anche se questa ancora non è finita per così dire, ma comunque tutti i sabati mattina dalle 10 alle 12 l'appuntamento con voi ascoltatori di Radio 24 della Allegra Compagnia di Giro dei Conti della Belva. Carlo Alberto, Mario, Renato e Oscar Giannino, per farvi iniziare un inizio di fine settimana per così dire un po' abrasivo, parlando dei dati dell'economia, di quello dei luoghi comuni italiani, delle cose che vanno e non vanno. Ma intanto, cari ragazzi, come la siete spassata in queste settimane di torto collo? Abbiamo dovuto sospendere, noi avremmo continuato, siamo ovviamente gli stacanovisti. Tu, Renato? Ah, io principalmente lavoro d'estate. Bravo, quindi tu hai fatto il PIL di cui ci occuperemo in questa trasmissione. No, ma perché poi le vacanze le faccio quando gli altri lavorano, che è un po' più comodo. Allora aspetta, ne fai tantissime, però questo significa che bisogna vedere quanto sono lunghe le vacanze di Renato. Carlo Alberto. Io vado a risciacquare i panni dell'Hudson, come sai. Sì, sì, sì, perché è meglio dell'Arno, che è pericoloso. What's America. Sì, sì, sì. E torni a casa capendo che questo paese, per quanto forse si sta risvegliando, ha ancora tanta strada da fare per recuperare la velocità, la velocità degli amici americani. E vabbè. Ora, per dare un piccolo segnale di come ci autointerpretiamo, dovete sapere che Renato, alla ripresa della trasmissione, ha regalato a ciascuno di noi quattro un gufo, e questo, e quindi adesso chiedo a Mario, perché è il gufo d'onore tra esatto, tutti ma noi. Poi io mi sono sempre chiesto, ma il gufo che verso fa? Però sentiamo, no, cosa... non saprei. Alla voce di Mario, questo è sicuro. Sì, c'è stato qualcuno che ha commentato su internet, su un blog, che io ho una voce simile a quella di Tremonti, cioè questo veramente è un affronto che va lavato col sangue, diciamo, da un certo punto di vista. Dall'altro è come dirti che avrai grandissimo successo, però perché... può darsi, però io non sono tributarista, quindi la vedo difficile. Esattamente. Allora, cari ascoltatori, come sempre, ecco, quindi vi abbiamo dato anche il segno di che cosa fanno i gufi la notte. Fanno esattamente così. Non era Tremonti, non era neanche Mario, per così dire. Anche se forse Mario in amore può essere che faccia queste cose qui, ma non... Tenderei di escluderlo. Tenderebbe a escluderlo. Allora, cari ascoltatori, come sempre trovate sulla pagina dei Conti della Belva, quindi andate sul sito Radio 24, programmi Conti della Belva, trovate gli argomenti e gli ospiti di oggi. Ma ve li richiamo in sintesi per consentirvi di iniziare a organizzarvi per intervenire in diretta all'800240024 chiamandoci e 349-238-6666 per gli sms, dopodiché sui social, l'account su Twitter è i Conti della Belva e così via, e noi vediamo come farvi intervenire su tutti gli argomenti. Di cosa parliamo oggi? Avremo, oltre all'inizio, il nostro rituale appuntamento che riprende e manterremo in tutta la trasmissione, lo sapete a che punto è la crisi, con Mario Seminerio, e interpretiamo gli ultimi dati più recenti sulla ripresa italiana, il PIL, riparte il PIL, l'occupazione. Ma manterremo finché Renzi ci consentirà di parlare di crisi, ma mi sa che adesso, come dire, per decreto governativo sarà vietato parlare di crisi, c'è solo la ripresa, sei tu l'unico che non se ne rende conto, diciamo, come fanno i cinesi praticamente. La ripresa, infatti. E dopo quello avremo un lungo blocco in cui ci interroghiamo su un punto, perché quest'estate ha confermato a nostro giudizio che la sarabanda nel rilascio dei dati dell'andamento dell'economia, l'occupazione, il lavoro e così via, è tale tra Istat, INPS e soprattutto le comunicazioni obbligatorie sul mercato del lavoro, delle attivazioni e cessazioni da parte del Ministero del Lavoro, che ormai il caos è diventato permanente. Abbiamo un'impressione fortissima di reiterati episodi di manipolazione dei numeri, si pubblicano le attivazioni dei contratti come se fossero posti di lavoro, ci si dimentica delle cessazioni, si rivedono ex post le serie storiche dell'anno prima. Ieri il responsabile economia del PD Taddei annuncia 700.000 occupati a tempo determinato in più, quando invece dimentica anche in quel caso che il saldo è 286.000. Allora, questi incidenti sono così sistematici che ci poniamo un problema e lo chiediamo a voi. Ma è un'emergenza? Bisogna rassegnarsi? Comunque meglio più parlare di numeri rispetto a prima, ma a quel punto sapendo che il caos diventa, per così dire, la regola? Oppure quello che arriva a voi tutti in ascolto, all'opinione pubblica, è semplicemente una grande sfiducia perché ognuno si fa i numeri come cavolo gli pare? Ecco, noi ne parleremo con l'ex presidente dell'Istat, Enrico Gioni, e con Tommaso Monacelli, che insegna alla Bocconi, ma soprattutto ci interessa la vostra opinione. Voi vi fidate di tutta questa congerie di numeri che sembrano dire tutto e il contrario di tutto? Vi fidate di titoli sparati, perché il problema è: ha più colpa l'informazione o la politica, in cui sembra che il PD stia accelerando tantissimo, poi andando a vedere vedrete che levando l'auto e quello che dipende dal caldo sui beni durevoli e l'elettricità, il resto in realtà è fermo. Allora parleremo di tutto questo in un primo blocco, ci sarà poi un secondo blocco su un altro tema arroventatissimo quest'estate, cioè quello della svolta in atto in Europa con la Germania che cambia idea sui profughi, spalanca le porte, obbliga l'Unione Europea riottosa con tutti i paesi nord europei e centro europei che non sono d'accordo con la Germania a cambiare le regole, la redistribuzione di quote molto più elevata rispetto ai 32.000 stabiliti prima sui profughi. Però che cosa succede per l'Italia? Noi abbiamo un problema che è fatto soprattutto di migranti economici, non dei profughi, quindi non rientra nelle nuove quote di ripartizione, delle nuove regole, e abbiamo la Libia di cui tutti oggi, buttandosi sulla Siria, si dimenticano che resterà irrisolta. Parleremo di questo e vogliamo anche su questo sentire la vostra opinione. Poi una rubrica che terremo fino a che non arriva la legge di stabilità, e arriva la legge di stabilità, cosa succede sui prepensionamenti? Abbiamo passato un'estate in cui parte della maggioranza del PD, presidente delle commissioni come Cesare Damiano, che sarà con noi, dicevano è fatta, il governo è convinto, si torna ai prepensionamenti. Baretta, sottoscritto dal governo, dice la stessa cosa. Poletti, ministro del governo, dice la stessa cosa. Pochi giorni fa il governo dice ai giornali non se ne parla proprio, non si fanno interventi di questo tipo. Tenteremo di capire tra PD e minoranza, oltre allo scontro su il Senato e come lo si elegge, come andrà da questo punto di vista. Ora, prima della prima pausa, vi dico che l'intervista della giornata è quella del Presidente del Consiglio al Foglio. Leggetelo, ho trovato la sua rassegna stampa. Sveglia, la crisi è finita, dice Renzi, e a un certo punto annuncia che nella legge di stabilità il governo si dà, lui dice con l'assenso dell'Europa, lo fa capire, a noi non risulta, ma vedremo, la possibilità di fare deficit in più per 17 miliardi, quindi passerebbe da 1,8 di deficit l'anno prossimo a 2,8-2,9. E dice testualmente che le tasse non si tagliano tagliando la spesa, è una sciocchezza, dice il Premier, le tasse si tagliano soprattutto in deficit. Il mio commento è che questa è la strada di chi poi è sempre costretto nella storia a rimangiarseli i tagli delle tasse, però vedremo, può essere che abbia ragione lui, che voi siate d'accordo con lui. Ci sentiamo tra poco. Della belva. Ed eccoci qui tornati in diretta dagli studi novembrini, direi, dal colore che hanno, della luce riflessa in una maniera veramente tardo autunnale di Radio 24 di Milano. Renato, Carlo Alberto e Mario e Oscar, e cominciamo abitualmente con la nostra rubrica, che appunto è la crisi. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Oscar Giannino ha dovuto cambiare la sigla della sua trasmissione, quella del lunedì e venerdì, non ci sono più i Doors, non c'è più This The End, abbiamo messo Window Change con gli Scorpions, perché il pubblico... Svegliatevi, la crisi è finita, ormai è ufficiale. Dice il renziano oramai Carlo Alberto, per così dire. Allora, premessa alla parola che lascio a Mario, noi non partecipiamo programmaticamente allo scontro dell'ottimismo di maniera filogoverno o del pessimismo di maniera antigoverno. Tentiamo solo di fare il nostro mestiere per richiamare i dati reali contro le manipolazioni e darne le interpretazioni, le interpretazioni sono anche libere opinioni, non dico di no, che ci sembrano più corrette. Non tirateci per la giacchetta dicendo che lo facciamo perché ci sta simpatico o antipatico il governo o l'opposizione, perché non si tratta di questo. Allora, Mario, da che partiamo? Dalla produzione industriale? Sì, ma la produzione industriale di luglio è uscita abbastanza bene, siamo in controtendenza rispetto a tutti i nostri maggiori partner europei, però come avevo già segnalato a giugno, diciamo, cioè un mese fa rispetto ai dati di giugno, il dato porta con sé una rilevante distorsione dalla famosa ondata di calore che c'è stata nel mese. Infatti non è un caso che la produzione di elettricità, quindi condizionatori eccetera, sia letteralmente esplosa. Con questo non si nega che, diciamo, l'andamento manifatturiero è stato moderatamente positivo, abbiamo avuto uno 0,5 su mese che sul trimestre, quindi è in corso una ripresa ciclica. Questo continueremo a dirlo speriamo, alla nausea. Speriamo cosa vuol dire ciclico. Cioè una ripresa che non si alimenta di cambiamenti profondi nella struttura economica nostra o di quella di altri paesi. È una ripresa indotta da un poderoso stimolo esterno. Sappiamo benissimo che questo stimolo esterno si chiama Draghi, anche se diciamo il cambio dell'euro si è rafforzato ultimamente. Questo stimolo esterno si chiama, entro dati limiti, petrolio. Sappiamo anche che... tuttavia abbiamo il problema, ed è un problema che vedo ancora assente nel dibattito pubblico italiano, probabilmente perché noi arriviamo sempre in ritardo, abbiamo una condizione di turbolenza nei paesi emergenti, la Cina, la situazione del Brasile, ma più in generale, che sta veramente aggravandosi. No? Quindi, diciamo che la grande frenata che dal mondo viene in tutti i paesi emergenti e che abbatte il commercio mondiale e quindi si abbatte sull'export, che era quello che trainava di più nel breve, esatto, il PIL italiano, è completamente assente dai giornali italiani, esatto, come se non ci per fosse. Ora sì, per ora sì, perché stiamo ancora facendo e costruendo preventivi, diciamo, di revisioni al rialzo del PIL, che ipotizzano ancora questo andamento inerziale, quindi che vada bene, diciamo, la manifattura, eccetera, come previsto, diciamo, sino alla fine di giugno. La verità è che noi non sappiamo come saranno i dati macro cinesi e non solo di agosto e di settembre e da lì in avanti. Quindi la cautela sarebbe almeno d'obbligo. Quindi... E invece ci saranno le revisioni al rialzo del PIL italiano quest'anno e l'anno prossimo, perché questo è, il governo lo fa capire, lo capiremo tra pochissimo perché c'è la nota di aggiornamento del DEF che arriva, nella quale capiremo non solo gli obiettivi più alti di deficit l'anno prossimo, perché tanto si va al 2,8-2,9 di deficit, ma vedrete come vengono corrette le tesi di crescita al rialzo. Però devo, come sempre, provare a contrastare, certo. Mario, ieri ero con Roberto Maracino, che è chief economist del SACE, e mi dice, sì è vero, Russia la stiamo perdendo, Brasile la stiamo perdendo, sulla Cina... parliamone, perché possono cambiare il mix di importazione della Cina, più verso beni leggeri, più verso beni di consumo, quindi tutto sommato magari perde più la Germania e un po' meno l'Italia. La Cina sta andando a riduzioni del tasso di importazioni tra il 13 e il 15% ogni mese, i dati sì, sono questi. Però devi disaggregare per geologia, okay. E poi lei mi dice, guarda che se riparte l'Iran faceva 7-8 miliardi, okay, per l'Italia, quindi non lo so, ecco, no, c'è una situazione a macchia di leopardo, subito, forse a macchia di giaguaro a questo punto, però resta niente. Il fatto che nella produzione industriale, se leviamo la componente importantissima dell'auto con la Fiat che è salita nella capacità impegnata dei diciamo suoi stabilimenti, ha ripreso, perché poi partiamo da 400.000 macchine, cioè partiamo da un livello degli anni 70, anni 50, se leviamo questo e gli effetti caldo sia sui beni durevoli, condizionatori, però, e produzione di energia elettrica, adesso, però non potete lamentarvi sempre, cioè, piove il governo ladro, fa caldo, viva il PIL, ho capito, ma non è che possiamo dire quindi posso... speriamo solo in un freddo fottuto, perché posso dire una cosa, però allora tutti se la prendono sempre con l'industria dell'auto che in tutto il mondo è sovvenzionata, però poi adesso che comincia a ricrescere sono tutti contenti perché ricresce. Io butto lì una cosa, voglio sapere come la pensa Carlo Alberto. La mia opinione è che dopo le piocce cassare il titolo Ferrari, entro 6-8 mesi, il rumore che sento dai fondi di investimento e molti hedge, ma soprattutto fondi di investimento non hedge americani, e Warren Buffett, che non è proprio un segnale trascurabile, è che Marchionne lancia l'OPA sulla GM. Sì. Sì, in America se ne parla sistematicamente, il consolidamento dell'industria automobilistica a debito sulla GM, ma credo che questa possa essere un leverage buyout sulla GM. Anche perché Marchionne in America comunque gode ancora di ottima stampa, ottima reputazione, viene vissuto bene sul progetto fatto Chrysler, ha in mano piccole cose interessanti sulle auto innovative, ha lanciato modelli nuovi ibridi, anche elettrici, e il mercato dell'auto si sta muovendo rapidamente. Io all'Alfa, anche vista l'Alfa su cui punta, non ci crederò mai, 500.000, ma detto questo, la prospettiva invece internazionale, secondo me. Beh, però l'Alfa a livello internazionale ha comunque ancora un gran nome. Sì, ha un nome, però di un brand, però di un brand, per così dire, morto. Perché... Ma allora, però... morto è qualcun altro, morto allora, sarà la Skoda, no? Adesso con tutto rispetto. Non vorrei. Non deviamo, perché sennò ci iniziamo a parlare della Fiat di Marchionne. No. Allora, sono tornato a un'auto italiana. Sei tornato a un'auto italiana. Come me tanti miei colleghi. Io sono passato a una giapponese, quindi sono preoccupato. Quando vedo però i giornali italiani che ti titolano successo tra in altre case è Jeep, come ovvio, come marchio. Dice Jeep, il Made in Italy vince. Jeep Made in Italy. Cioè, scusate, mi scappa da ridere. I giornali hanno una certa responsabilità. Però i giornali del gruppo? Non solo. Ah, ok. Non solo. È un riflesso condizionato diffuso. La piccolina la fanno lo stesso stabilimento. No, ma per carità. E comunque, ripeto, io lancio l'ipotesi, perché mi arrivano un mucchio di newsletter dagli Stati Uniti che dicono: secondo noi il 2016/17 è l'anno buono perché Marchionne lanci l'Opa, ed è evidente che Marchionne sta triturando la barra, cioè amministratore delegato e General Motors, per dire: tu non vuoi creare valore, mentre io ne creerei di più ai tuoi azionisti facendo una scalata che, con le sinergie, come ovvio, significa anche tagli di capacità produttiva. Beh, ma soprattutto con l'IPO Ferrari qualche soldino qualche soldino lo in cassa. Dopo la produzione industriale, facciamo qualche riflessione, Mario, su la cosa agostana, cioè questa specie di enorme torneo di caos che c'è stato dal Ministero del Lavoro sull'occupazione, le release dell'Istat e così via. Sì. Come spiega secondo te e secondo noi tutti il fatto che oramai non si riesce a capire perché questa sovrapposizione di dati porti anche a una proposizione da parte pubblica dei dati così discutibili? È quello che è successo con il dato del Ministero del Lavoro, diciamo, che è stato gonfiato all'inverosimile, poi è stato liquidato come errore materiale, mi sembra molto grave. Ma perché, un errore materiale nell'ordine di quasi 400.000 unità, era superiore alle 300.000 unità. Esatto, che peraltro, come giustamente segnalava diciamo il professor Giovannini, che dopo probabilmente confermerà e ribadirà il concetto, quando una unità statistica o comunque di raccolta e rilevazione dati commette un errore, dopo spiega la metodologia in base alla quale l'errore è avvenuto. Non è che dice: scusate, è stato un errore materiale, eccetera, eccetera. Perché, cioè, questo veramente è abbastanza drammatica come cosa. Poi siamo andati avanti per un anno, a frantumarci i cabbasisi dicendo, oscillando, no, tra il Jobs Act crea nuova occupazione versus il Jobs Act combatte la precarietà. Ovviamente la lettura corretta è solo la seconda, però si gioca su questa ambiguità e si è continuato a giocare. E poi ci sono altre cose piuttosto gravi, no? Cioè, voglio dire, abbiamo avuto Padoan, che è andato al G20 ad Ankara, ha proiettato l'ultimo dato Istat sul mercato del lavoro nella stratosfera, perché tutti i precedenti erano di assoluto piattume. Ha preso l'ultimo dato, l'ha fatto esplodere, ha detto: visto che le riforme funzionano. E poi dal MEF ieri l'altro è uscito questo comunicato abbastanza bizzarro sull'osservatorio partite IVA, che sulla base semplicemente del fatto che c'è stato un calo del 10% anno su anno delle partite IVA aperte da persone fisiche a luglio, ergo è il Jobs Act che sta combattendo le false partite IVA. Peccato che... Dopodiché io ho preso semplicemente la somma dei dati delle partite IVA aperte da persone fisiche da marzo a luglio, cioè da che c'è il Jobs Act, cioè da quando c'è il Jobs Act, diciamo il contratto a tutele crescenti, l'ho comparato con il corrispondente periodo del 2014, perché questo, cioè, non ci vuole una laurea in astrofisica per fare sta cosa, semplicemente bisogna smetterla di prendere un dato e proiettarlo nella stratosfera, e a me è risultato che esattamente il contrario di quello che afferma, cioè, il MEF, le partite IVA non diminuiscono ma aumentano. Allora è vero che, diciamo, panglossianamente noi potremmo anche dire: però questo è il segno che il lavoro autonomo riparte dopo che è ripartito il lavoro dipendente. Sì, però Mario, quindi va tutto Mario, bene. Ti mando in vacanza, torni e sei incazzato come prima. Qui non va mica bene. Non sono incazzato, peraltro sto per tornare in vacanza. No, secondo me... cosa voglio di più dalla vita? Però fammi dire, secondo me c'è un'urgenza, hanno troppa voglia di parlare di dati. Cioè, appena c'è qualcosa di positivo. Beh, in Italia, in effetti, però, se posso, sono degli entusiasti. Diciamo. Fatemi dire invece, se passiamo dal merito al metodo, siamo passati da un paese analgebrico, cioè che ignorava l'esistenza del dato quantitativo, sì, a un paese paraalgebrico, cioè che prende un po' di numeri e li deforma. Ma no, ce n'è un passo in avanti, da no? Un paese analgebrico a un paese non paraalgebrico, paraculo, no, no, perché questo, ognuno questo, qua si coglie il dato merito che vuole. Però invece, se ti ricordi, quando Renzi arrivò al governo in maniera rocambolesca, disse no, ma i decimali non contano, i numeri, la gente non guarda il numero, no? E adesso sta cambiando idea, perché invece qualche numero accuratamente selezionato e deformato li usa. Allora, io trovo che comunque sia un guadagno, perché se notate, ormai da 3-4 anni i giornali, i telegiornali stanno pubblicando grafici, statistiche, stiamo cominciando a masticare, sono piccoli esercizi di alfabetismo quantitativo. Non lo so, Carlo Alberto, fatemi essere ottimista. Per arrivare all'opinione pubblica, come fanno le comunicazioni obbligatorie mensili del Ministero del Lavoro, l'idea che attivazioni di nuovi contratti siano occupati e occupati aggiuntivi è un errore marchiano. Poi, dare il numero solo delle attivazioni, scordandosi le cessazioni, come è avvenuto nelle comunicazioni, non è un errore marchiano, è un errore che qualche testa dovrebbe rotolare. Poi, correggere ex post le serie storiche dell'anno prima, del 2014, come è avvenuto anch'essa questa volta, quest'estate, è una roba di fronte alla quale un'autorità dei numeri pubblici, cioè l'Istat, dovrebbe dire, scusate, ministero, ti fischio, fallo, cartellino giallo. Ma c'è fuori stata l'intervista di Alleva, estremamente frustrata al Fatto Quotidiano, purtroppo, lo dico, Alleva, diciamo, il presidente dell'Istat. Esatto, purtroppo quell'intervista è stata azzoppata da una titolazione infelice, completamente infelice, come spesso purtroppo capita nei giornali italiani. Capita anche, no? Ai presenti, se però, non sbaglio. Però, ecco, siccome quell'intervista è stata accuratamente registrata, concordata e verificata, come spesso succede in questo paese di ipocriti, le chiacchiere stanno a zero. Non è che un titolo azzoppa la sostanza. E la sostanza era che il presidente Lista diceva non si può andare avanti così. Allora, sentiamo Domenico da Mantova. Caro Domenico, la crisi è finita? Il presidente del Consiglio ti ha convinto? Pronto. Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Oscar, allora secondo me è una crisi molto drogata, analgesica, paralgesica, paraplegica, è una crisi molto drogata, perché innanzitutto, come dicevi giustamente tu, ha fatto un caldo della miseria, quindi i consumi sono schizzati, se la gente non voleva morire dal caldo. Due, io sono sempre in giro col furgone dalla mattina alla sera e ti posso assicurare che tutte le macchine che ha fatto la Fiat sono tutte quante dentro nei parcheggi degli autosaloni della Fiat. È una crisi drogata semplicemente dovuta dal fatto che il continuare a dire che sono aumentati i posti di lavoro, non sono aumentati i posti di lavoro, sono aumentati, sono diminuiti, hanno semplicemente preso quella quota di persone che prima era precaria e l'hanno passata con il contratto a tempo indeterminato, perché l'imprenditore ha finalmente, tra virgolette, vantaggio ad assumere persone perché c'ha lo sgravio del 8.000 euro, non poca roba. Hai detto gotica. Esatto. Però, ma da questo a dire che la crisi è finita, ti posso assicurare, da una persona che lavora nel settore dell'agroalimentare, non è per niente finita. Ecco, allora, su questo i consumi sono nell'ultimo mese riprendono, vediamo da questo punto di vista, i consumi dei beni semidurevoli naturalmente non riguardano le fasce di reddito più basse, però su questo non abbiamo dati disaggregati. Comunque, noi torniamo a occuparci di questa emergenza dei dati tra poco, dopo la sospensione, perché abbiamo con noi appunto l'ex presidente dell'Istat, Enrico Giovannini e Tommaso Moracelli. Voi continuate a telefonarci per dire se secondo voi la ripresa alle spalle, non bisogna più parlare di crisi, non è vero che ci sono 9 punti di PIL da recuperare, non è vero che abbiamo perso il 25% della produzione industriale, non importa aver perso il 27% del totale degli investimenti pubblici e privati, chi parla di questo è un gufo, dice il Presidente del Consiglio, tra poco. Adriene! Adriene! Dove sei, Adriene? Lasciatemi in pace! Ma se Rocky avesse avuto questa voce, il film avrebbe avuto lo stesso successo? Scopriamolo insieme. Voice Anatomy, il nuovo programma di Pino Insegno, io, da domenica 13 settembre alle ore 14.30 su Radio 24. Rifacciamola! Voce, Pino, voce! Andrà bene così! Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamo. Della belva. eccoci qui tornati in diretta alla compagnia di Giro dei Conti da Belva. Renato, Carlo Alberto, Mario e Oscar. Ci hanno raggiunto due ospiti telefonicamente. Il punto, quello che vi abbiamo introdotto con qualche riflessione nostra di interpretazione sui più recenti dati della produzione industriale e su quello che è avvenuto nell'agosto alle nostre spalle, su questa confusione crescente sulle release che si sommano, cioè il rilascio dei dati da parte dell'Istat, dell'Inps, del Ministero del Lavoro, con le comunicazioni obbligatorie su attivazioni e cessazioni, in particolare questo terzo atto di rilascio di dati mensili è diventata una fonte permanente di confusione su attivazioni spacciate per occupazione aggiuntiva, dimenticandosi le cessazioni, ricorreggendo gli errori senza spiegare come avvengono, cosa che ci lascia senza parole, correggendo ex post le serie storiche degli anni precedenti. Il risultato è di un caos permanente. Dice Carlo Alberto, meglio parlare di dati più rispetto a quando se ne parlava meno negli anni nostri alle spalle in Italia. Io dico, attenzione, il grande rischio è che la gente non ci capisca nulla e dica non mi fido di nessuno, e questo è il peggior servizio che possiamo fare ai numeri nel dibattito pubblico. Le opinioni sono diverse, ma i numeri e i fatti dovrebbero essere asseverati, certificati e non manipolati. Allora, per parlarne abbiamo con noi l'ex presidente dell'Istat Enrico Giovannini, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno. E il professor Tommaso Monacelli, che insegna in Bocconi. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, sì, cominciamo con Enrico. Ecco. Anche perché Enrico l'anno scorso ha scritto, il professor Giovannini, voglio dire, ha scritto un bel libro, si chiama Scegliere il futuro, conoscenza e politica ai tempi dei big data, in cui proprio tratta questo tema molto, molto fresco, no? Dell'uso del dato quantitativo come merce di scambio democratico. È un sistema che la politica ha per comunicare, no? E quindi per scegliere e definire il futuro, ma anche uno strumento che il popolo, gli elettori devono usare per controllare, per in un certo senso per, ma se sono manipolati, esatto, non controlli. Quindi la mia domanda, caro Enrico, oggi dovresti fare un aggiornamento: scegliere il futuro o manipolare il presente? Scusa, come dire, la provocazione, ma su questo punto so che hai fatto tanto lavoro sia quantitativo che di ricerca culturale, e volevo sapere cosa ne pensassi di questo balletto di dati. Ma in realtà le due tendenze, cioè produrre dati corretti, comunicarli correttamente e utilizzare questi dati per motivi politici, per propaganda politica, questi due fenomeni vanno sistematicamente insieme, non solo in Italia. In altri termini, gli istituti di statistica cercano di usare non solo le migliori tecniche, ma anche una comunicazione il più asettica possibile. E poi naturalmente i dati vengono utilizzati per la propaganda politica. Cosa succede in Italia in questo momento? Succede che, in particolare sul mercato del lavoro, abbiamo una molteplicità di dati, alcuni di tipo statistico, quelli dell'Istat, e altri di tipo amministrativo, quelli cioè dell'INPS e del Ministero del Lavoro, che registrano contratti, registrano eventi amministrativi, che non vanno necessariamente nella stessa direzione. E il fatto di avere ben tre comunicati in un mese con i media che danno grande importanza a tutti questi dati come se fossero di uguale qualità, chiaramente crea confusione. Ma questo succede anche con i dati della Confcommercio l'altro giorno, che sono delle stime assolutamente rispettabili, ma sono delle stime, non sono dati ex post, e in molti altri casi. Diciamo però che non succede con le comunicazioni settimanali sulle richieste di assegni di disoccupazione negli Stati Uniti, cioè se io paragono lì non esiste avere la forbice di errori materiali, uno, mancata spiegazione di correzione degli errori materiali, due, e vere e proprie mistificazioni che a volte avvengono, devo dire, soprattutto in occasione del rilascio mensile delle attivazioni e cessioni dei contratti. O no, mi sbaglio in questo, Giovannini? Beh, i dati dei nuovi lavori negli Stati Uniti sono un dato consolidato, sono un dato che ormai gli utilizzatori sanno come utilizzare. I dati delle comunicazioni obbligatorie, che io quando ero ministro avevo cominciato a pubblicare trimestralmente, esatto, proprio per evitare che i dati mensili, che sono molto volatili, potessero dare indicazioni così troppo, appunto, contraddittorie. In più, non solo i dati grezzi, ma anche i dati destagionalizzati, che consentivano un confronto col trimestre precedente, un migliore confronto con i dati Istat. Ecco, se da dati trimestrali si passa a dati mensili solo grezzi e poi al di là degli errori, è chiaro che il rumore aumenta. Qual è il punto però? È che abbiamo bisogno di far evolvere anche la capacità dei media di leggere questi dati. Un esempio per tutti. I dati dell'Istat riguardano lo stock di occupati, e cioè ci dice quante persone in quel mese sono al lavoro, secondo le definizioni statistiche. Dopodiché ci dice anche quanti di questi sono a tempo determinato, a tempo indeterminato, eccetera, ma con una frequenza trimestrale, proprio perché si vuole evitare che dati statistici basati su un campione molto grande ma insufficiente per avere questi dettagli appunto siano ballerini. Cosa succede? Succede che il Ministero del Lavoro e l'INPS danno queste informazioni di carattere amministrativo che possono essere utili per integrare i dati Istat, non per sostituirli. Ad esempio ci aiutano a capire che effettivamente il combinato disposto del Jobs Act e della fortissima riduzione, anzi azzeramento per 3 anni dei contributi, stanno spingendo tante imprese a saltare su questa opportunità e che stanno convertendo quindi contratti a tempo determinato a tempo indeterminato senza necessariamente avere un aumento occupazionale. E che cos'altro ci dicono questi dati? Che i settori si stanno muovendo in modo molto eterogeneo, per esempio sta aumentando l'agricoltura, mentre l'industria in senso stretto non sta facendo grandi passi avanti, le costruzioni nel mezzogiorno si sta. Ecco, tutti questi dati devono essere utilizzati dagli analisti piuttosto che lanciando ogni singolo dato come se fosse appunto segnale di svolta o di crollo, come un modo per interpretare cosa succede nell'economia e aiutare i cittadini a capire. Su questo voglio proprio trascinarti di nuovo su un tema più generale, cioè perdita del monopolio del dato. E qui, come dire, le fonti di dati si moltiplicano e c'è un problema di comparabilità, qualità e rappresentatività del dato. Ruolo dei media nell'amplificarli o nello strumentalizzarli, e tu ne hai scritto tanto, qualità del capitale umano, citando guarda caso l'analfabetismo algebrico degli italiani. Ecco, per me è un'occasione buona invece per cominciare a parlare di numeri, cioè per investire in cultura quantitativa. In questo senso applaudo per il dibattito, anche se ovviamente sono d'accordo nello stigmatizzare ogni manipolazione. Sì, esattamente, va preso come un'opportunità per far crescere la capacità degli analisti, ma anche quella soprattutto delle persone che in questo momento ci ascoltano, i cittadini comuni. Ed è qui dove il mio fegato strilla un pochino, perché quando ero presidente dell'Istat avevo istituito la Scuola Superiore di Statistica e avevamo tra l'altro avviato i corsi di Data Journalism. Purtroppo nell'ambito della riforma Madia dell'anno scorso alcune varie scuole sono state accorpate nella Scuola Nazionale di Amministrazione, di fatto questi corsi sono stati interrotti e credo che stiamo perdendo una grande occasione. Ripeto a entrambi, io apprezzo l'ottimismo, per così dire, evolutivo che impronta la vostra considerazione. Vi faccio notare che nell'evoluzione di uno qualunque organismo, se interviene una patologia, poi cresce peggio. Se noi trasmettiamo all'opinione pubblica l'impressione che i dati dicono A è il contrario di A, noi l'aiutiamo a crescere, secondo me l'aiutiamo a diffidare dei dati, ed è l'esito opposto rispetto a quello ovviamente che sia voi che io ci auguriamo per questo paese che è andato avanti per tanto tempo con il pieno disprezzo verso numeri e analisi quantitative condivise. Ma è molto molto diffuso, perché poi è diffuso anche nelle aziende, poche aziende sono abituate a misurare. Dici? Dati, sì. Sì, perché poi alla fine l'Italia è fatta di piccole aziende e il piccolo imprenditore spesso è un po', diciamo, non tanto portato a misurare, perché misura le sue prestazioni. E quindi si rischia l'autocritica. Esatto. Io devo dirvi questo, ho l'impressione, per esempio, e poi sospendiamo e riprendiamo insieme a Enrico Giovannini e al professor Monacelli, molte imprese, ovviamente le imprese non si aspettavano una decontribuzione come questa che il governo gli ha dato così forte, ma diciamocelo fuori dai denti. Adesso nel terrore che con la nuova legge di stabilità si intervenga a decremento, perché insomma va bene che ci annuncia oggi Renzi che fa il 2,8-2,9 di deficit invece che 1,8, però insomma la coperta è corta alla fine, visto che si comincia dai muettasi nell'abolizione delle tasse. Le imprese tanto hanno paura adesso che ci sia il taglio della decontribuzione, che sposano la linea più estrema degli effetti di lettura sui mercati del lavoro, e la mia tesi invece è contraria, dicendo: ma ragazzi, voi dovreste vedere i numeri come stanno. Posso dirvi che questo sistema Confindustria è molto più esteso di quanto non sembri e influenza molto anche editorialmente i giornali italiani. Mi prendo la responsabilità di quello che dico, essendoci andato di mezzo diverse volte per cose che ho visto pubblicare in maniera diversa da quella che avevo scritto. Torniamo tra un minuto. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati qua in diretta da Radio 24 ai Conti della Belva con l'allegra compagnia Renato, Carlo Alberto, Mario e Oscar. Stiamo parlando di questa emergenza della manipolazione dei dati. Meglio avere tanti dati, ci dice l'ex presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Carlo Alberto qui è d'accordo con lui, sapendo che in questa crescita, in questa accelerazione della produzione e diffusione dei dati pubblici sugli andamenti economici, mercato del lavoro, produzione industriale, imprese, esportazione e così via, inevitabilmente ci sono dei fenomeni di crescita un po' disordinata. Io dico c'è un grande rischio, secondo me, perché partiamo da zero dati numerici all'idea che poi ciascuno si fa i suoi. Del resto, il sottotitolo dell'intervista di Renzi stamane al Foglio è... titolo è molto chiaro, è in rosso: sveglia, la crisi è finita, ed è rivolto a noi gufi. Ma sotto c'è scritto tasse, spesa pubblica, psicologia, che è una chiara ammissione di come con i dati manipolazione si vuole. Ecco, noi diciamo manipolazione, altri dicono no, ma è ovvio, è fisiologico, vuole influenzare, è ovvio che la politica debba influenzare. Ma al professor Monacelli io chiedo, nella sua opinione, chi è il più colpevole da questo punto di vista? Il politico, che giustamente vuole portare l'acqua al suo mulino, o noi dell'informazione? Ma credo, innanzitutto, credo sia importantissimo veramente dibattere su questo aspetto, perché è uno degli elementi che fa di questo paese un paese anomalo. Ma lo rende un paese anomalo anche per chi tutti i giorni in ufficio, come me, lavora sui dati, fa ricerca, e ogni volta che deve fare un grafico sull'andamento di un dato economico in Italia, sa che ci deve perdere il triplo del tempo, ma anche solo per fare una slide per gli studenti. Allora, ci marciano chiaramente in parte i politici, ma è responsabilità anche dei media. Ma io la vedo non in termini di breve periodo e di miopia, io la vedo in termini di incapacità. Cioè se da tutto questo dibattito anche solo riuscissimo a fare in modo che dalle scuole e dai licei a noi arrivassero all'università studenti che fanno la differenza tra stock e flusso, questo sarebbe molto importante. Pensate al dato sul mercato del lavoro, pensate alla disoccupazione, il famoso 12% verso cui sembrerebbe che siamo ritornati. Che cos'è? È essenzialmente, questo non è stato detto, mi sorprende, non dico oggi ma generalmente, certo, nel dibattito più recente, è il risultato di che cosa? Di un incremento del numero di inattivi. Allora è un dato francamente deludente, è un dato che ci dice che più gente smette di cercare lavoro ed è scoraggiata. Non è certo un dato da gufi, cioè, è certamente un dato importante. Allora, anche questo, se da questa transizione noi riuscissimo a ottenere che, quando si parla del dato della disoccupazione, il paese imparasse a capire che ci può essere un incremento in alcuni casi del numero di occupati, ma la disoccupazione aumenta perché c'è più gente come effetto netto che smette di cercare lavoro, Beh, anche questa sarebbe una transizione verso una capacità di interpretare logicamente, in maniera più oggettiva, la realtà, che insomma qualche cosa ci porterebbe. Ritorno al punto iniziale, secondo me la canea del politico intorno a tutto questo purtroppo riflette veramente un'incapacità di fondo di comprendere minimamente quali sono gli aggregati importanti, quali sono gli spot diciamo, importanti. Per essere strutturali c'è un problema di analfabetismo economico-finanziario che continua a non esserci nei programmi scolastici. Sì, vero, però posso dire che l'effetto è che nei paesi OCSE siamo quello col più bassa capacità diffusa di fare una banale operazione di interesse composto, e questo significa milioni e milioni di risparmiatori italiani, siamo dei grandi risparmiatori che non sanno allocare poi il proprio risparmio, perché interesse composto è questa roba qua, cioè, purtroppo. Però anche in questa cacchio di riforma della scuola non c'è stato verso di farla entrare questa roba, caro Carlo Alberto, come difendi sempre il governo. No, è che se neanche Tommaso mi fa il filo governativo mi tocca farlo, qui qualcuno deve pur fare il renziano in questa simpatica banda di... Ma magari che non è l'ordine non medico. Fammi dire. Ma noi non stiamo criticando Renzi. No, ma neanch'io, figurati. Speriamo che vinca almeno una delle due finaliste capace. Perché poi saranno stati gli 80 euro, no? No, però fatemi dire una cosa intelligente se ci riesco. Sono almeno 4 anni che abbiamo governi che proiettano in televisione dei dati quantitativi. Io quando ricordo che Monti fece vedere il primo grafico sullo spread, erano 50 anni che questo paese non vedeva... Andreotti con i grafici. No, appunto. Le poi, convergenze parallele dei grafici. Dopodiché Renzi è arrivato con le slide, solo con quelle per la verità. Però io devo dire, sono contento perché vedo, come dire, PowerPoint al potere. Adesso, scherzando un pochino, però Tommaso, ammettiamo di vedere qualche segnale, almeno di una sintassi quantitativa che fa faticosamente la sua comparsa nel dibattito, anche se c'è dissenso su quali dati usare, su come interpretarli, sulla loro natura, quindi nel merito siamo d'accordo, no? No, certissimo, io sono in questo sostanzialmente dalla tua parte, cioè, visto che abbiamo toccato il tema della scuola, il mio cavallo di battaglia da sempre è meno trigonometria nei licei e un po' di statistica. Un applauso, mi scusi, mi parte spontanea l'applauso. Credo che anche Enrico Giovannini sarebbe d'accordo, o no? Non solo sono d'accordo, ma per fortuna adesso molti testi anche nelle scuole elementari cominciano a parlare anche di statistica, perché parlare di statistica vuol dire parlare di probabilità, esatto, vuol dire parlare di incertezza, vuol dire imparare a gestire in generale il rischio, e questo è quello di cui abbiamo magari vuol dire anche spiegare bisogno. La differenza fra correlazione e causazione, e spiegare magari al governo e al ministero, al tuo successore ministero del lavoro, ma questo ai giornalisti, questo ai giornalisti mi posso dire che non capire la distinzione tra correlazione e causazione, innanzitutto bisogna cominciare dai direttori, se mi permettete, perché poi i giornalisti sono un conto, altro conto non dimenticate le monarchie assolute che sono i giornali della informazione. Adesso scade il tempo, ti tagliano, pensano che ti tagliano perché parli male dei direttori. Parlo male dei direttori, però i direttori sono loro che decidono cosa ci va nel giornale e come si spiega, e loro queste robe, perdonate, 99 volte su 100 non hanno idea di che cosa siano. Grazie a Enrico Giovannini, grazie al professor Monacelli, noi ci sentiamo tra poco. Benvenuti, tutti convocati come tutti i giorni dalle 14 alle 15.30, con me c'è Carlo Genta, Pierluigi Pardo, ancora tu, ancora tu, purtroppo l'unico. Cambiamo tutto, cambia il format, te l'hanno detto. Sì, facciamo programma più serio, molto più serio. Dalle 14 alle 15.30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tutti convocati, i principali avvenimenti dello sport dall'Italia e dal mondo. Forse stai esagerando però. O meno? O meno. Però a me piaceva. Vabbè, allora proviamoci. Il segnale orario vi è offerto da... Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci tornati in diretta all'Allegra Compagnia dei Conti della Belva. Renato, Carlo Alberto, Mario e Oscar, qui in diretta di Studio Radio 24 di Milano in questo sabato. Sono diventate le 11, 8 mattina e 8 del mattino. Abbiamo visto nella prima ora un po' di dati accumulati e di rischi di manipolazioni sui dati economici del nostro paese. Il Premier che ci sveglia stamattina sul Foglio dicendo: sveglia, la crisi è finita, io taglierò le tasse in deficit, un punto in più di deficit. Ma no, però ci sono le coperture, prossimo. Le famose coperture di la copertura di Linus, come dicevo, invece che la coperta, che è sempre corta, la copertura di Linus, che è un po' più elastica. Scusami. Attenzione che poi se i copertoni come in Formula 1 vengono male, le macchine fanno brutti testa coda e non solo. Ma detto tutto questo, abbiamo visto questo una prima ora e adesso facciamo anche qualche telefonata da parte vostra, leggiamo un po' di sms e poi andiamo all'immigrazione. Migrazione, a questa svolta che è in corso, è una svolta non solo, lo sapete ormai, perché la Germania si è fatta due conti sui profughi siriani, ma è una svolta anche perché l'Ecofin ci conferma che l'Europa inizierà a considerare le spese per i profughi, vedremo anche se per i migranti economici, con un occhio diverso, cioè li considera come investimenti più che come spesa corrente, solo che per il resto degli investimenti non si fa eccezione al patto di stabilità. Forse per una parte delle spese per l'immigrazione si otterrà di fare eccezioni. Speriamo di no, perché con l'approccio che hanno i politici italiani, chissà che vogliono scorporare dal deficit PIL tutto, dal trenino elettrico allo zucchero filato, il cara di Mineo. Esatto, se ci mettiamo pure queste cose, questo paese è spacciato. Adesso, questo è un ragionamento che inizieremo a fare tra poco. Intanto cominciamo con le vostre telefonate. Sandro da Ferrara, prego Sandro. Sì, buongiorno. Buongiorno. Complimenti a tutti, ottima trasmissione. Io sono un imprenditore, un piccolo imprenditore, ho una quarantina di dipendenti, sono abituato abbastanza a muovermi in numeri piccoli, però che siano abbastanza chiari, perché poi alla fine dell'anno io i conti li devo fare. Allora io mi trovo come cittadino, come contribuente, come imprenditore, a fine agosto leggo i giornali un po' economici, un po' diciamo di quelli generalistici, che lo Stato italiano ha bisogno di 25 miliardi. Due giorni dopo vedo che c'è un avanzo di 9. Tre giorni dopo vedo che c'è un avanzo di 15. E poi dopo vedo i dati del lavoro che vengono variati giorno per giorno, ma non di poche unità, di migliaia di unità. E i contratti, e le partite IVA, e le chiusure, l'apertura. Io vorrei capire, ma com'è possibile fidarsi di questa gente che rilascia questi dati? Io non voglio dire che noi dobbiamo essere sempre pessimisti. Io non lo sono per natura, perché sennò non farei imprese in questo paese. Io la ringrazio, Sandro, perché Sandro dà voce agli effetti che io temo, caro. Ma Sandro non va bene, invece, che mi dà ragione all'Oscar. Invece io ho bisogno di che me lo contrastiamo, Oscar. Scusi, caro Sandro, scusi. È meglio non avere dati o avere l'obbligo di orientarsi sui dati? Io posso dire dei dati, non bisogna mai fidarsi, bisogna sempre verificare. La cultura empirica non è fidarsi ciecamente del dato, è avere gli strumenti concettuali per discernere il grano dall'olio, questo è il concetto. Quindi un po' più di dati, anche se non necessariamente convergenti, d'accordo, caro Oscar, aumentano la cultura quotidiana del paese. Rispondo io il suo nome, scusa caro Alberto. La cosa che dico io è che non è accettabile che il Ministero del Lavoro sbagli di 400.000 unità il conto tra attivazione e cessazione. 400.000 unità in una roba di tre mesi e non spieghi perché, noi lo accettiamo. Quindi non è significa meglio non avere i dati, meglio non avere dei banditi nei dati, questo è il punto, banditi pubblici nei dati, anzi lo dico a modo mio, basta, basta, basta, ecco questo storico. Ma ti sei fatto l'autocitazione sono stufo di sentire nelle altre trasmissioni, almeno la utilizziamo pure noi ogni tanto. Sentiamo Mauro da Roma come la pensa. Buongiorno Giannino, sono Mauro Asibani, l'Economaio. Buongiorno. Buongiorno, riferisco un dato e un fatto. Sì. Centro Studi Commercio riferisce che i redditi degli italiani, 1.030 miliardi circa, sono al 2014 gli stessi che nel 1985. Nel contempo, riferisco un fatto, sul mercato delle merci sono arrivate per quantità e in numero merci come non erano mai arrivate sul mercato. La crescita si fa con la spesa. Se non si rendono compatibili redditi e merci, dalla crisi non si esce. Pure perché i consumatori siccome il loro stare sul mercato sta ben oltre il bisogno, o vengono sollecitati con dei redditi adeguati a spendere, o altrimenti tirano i veli in barca, sono in grado di poterlo fare, non sono ricattabili dal bisogno. Allora, grazie a Mauro Martibani, interviene spesso, questo è il suo cavallo di battaglia, no? Quello dei redditi e dei consumi, ci ricorda naturalmente che in termini di livelli di reddito pro capite la perdita anche riaccumulata è stata molto molto molto molto forte. Siamo solo all'inizio, uno più 0,4 di ripresa dei consumi, vedremo che cosa succederà, vedremo soprattutto il famoso effetto di 80 euro eccetera alla luce della legge di stabilità, che cosa avverrà di questo effetto di 80 euro che ancora oggi statisticamente da rilevare quanto sia stato in consumi o meno è molto discusso come argomento. Io devo dire che sono rimasto molto perplesso, ma non voglio esprimere critiche, non ho tempo adesso, su la ricerca fatta dal professor Luigi Guiso, che avrete sicuramente visto o sentito, perché su alcuni criteri metodologici seguiti sul campione usato e così via, la mia opinione è che arrivare a quelle conclusioni è molto azzardato. Beh, l'ha chiesto a Renzi e i suoi... Vabbè, comunque, detto tutto questo, allora, c'è qualche SMS, ragazzi? No, nulla di rilevante. Ah, mi piace dirlo? No, perché diciamo. A lo sapevo che all'esordio. No, perché voglio essere, diciamo, abbastanza. Voglio alzare l'asticella, no? Perché voglio dire, non deve diventare uno sfogatoio. Devono esserci elementi, diciamo, di riflessione di e di spunto. Quindi mi stai dicendo che tutti quelli che mi insultano non mi insultano? No, però c'è diciamo, una cosa che riguarda Renato. Che dice, ma chi è quello lì che dice che le mini ditte non sanno leggere i numeri? Non ce l'ha mai avuta una ditta, segue, diciamo, un titolo accademico nobiliare che ometterei. Per cui, diciamo, se voi foste un po' più attenti, diciamo, magari riuscireste anche a evitare di dire sciocchezze. No, ma soprattutto che Renato Frelli l'impresa ce l'hai come. Sì, è neanche troppo mini, diciamo. Però fammi dire, qui questo c'è Ulisse che dice, la statistica è una finta scienza, perché con un po' di impegno riuscirei a dimostrare tutto il suo contrario. La statistica non è una scienza ma è un metodo, no? Che serve alla scienza e ovviamente la statistica intanto bisogna impararla e capirla e dal mio punto di vista il dibattito serve anche a questo, ad aumentare la cultura, no? Poi dubbio. Oscar, ti fanno notare che visto che parliamo di FCA e Made in Italy, la Renegade è fatta materialmente in Italia, per cui questo è il famoso dibattito su cosa è Made in Italy, l'assemblaggio di cacciavite, il design, allora, la progettazione, serie, la ricerca. Quando si tratta di difendere idee, progettazione, cioè degli italiani, noi diciamo che il Made in Italy in questo paese deve essere tutto, dalla prima capocchia dello spillo fino al porto finale, solo quello è Made in Italy. Jeep, che è ovviamente concepita, nata, assemblata con tutta la catena dei fornitori eccetera eccetera americana, solo perché adesso la facciamo qua in Italia diventa uno dei modelli, questione di punti di vista, per così dire, uno dei modelli viene fatto, questione di punti di vista. Allora ragazzi, cambiamo pagina. Immigrati, svolta europea in corso, Ecofin che dice valutiamo la spesa per qui parliamo ancora solo di profughi, le quote condivise sono per i profughi, le regole del diritto d'asilo sono per i profughi, cambiare Dublino 2 e 3 è per i profughi, sul meccanismo di identificazione che prima diceva nel primo paese diventa il paese che ha la competenza prevalente, però non dimentichiamoci, il paese dell'Italia è, il problema dell'Italia a maggior parte è fatto dai flussi italiani, l'Economist conferma questa settimana, ma è ovvio, basta vedere i paesi di provenienza, da migranti economici, cioè da gente che scappa da paesi dove violenza e miseria ci sono e come, ma non sono paesi che consentono il timbro della richiesta di asilo riconosciuto nel nostro paese e in Europa. E che facciamo noi se non mettiamo anche il tema dei migranti economici al centro della riflessione della nuova Europa? Che facciamo noi, visto che tutti adesso si riconcentrano sulla Siria e la Libia, l'enorme bacino da cui proviene il 90% dei flussi italiani sulle nostre coste, resta un buco nero di cui non ci occupiamo, cioè se non passiamo alla terza fase di Euronavfor formata a giugno, ma che ha 21 paesi impegnati nel Mediterraneo e che però per il momento resta solo nelle acque internazionali. Terza domanda, lo estendiamo anche ai migranti economici il criterio delle spese fuori da il tetto del deficit del patto di stabilità europeo oppure no? A quanto ammontano davvero le spese in Italia? Io la scorsa settimana ho fatto un articolo in cui ho messo insieme le cifre, quelle ci sono, quelle del bilancio SPRAR del Viminale, però SPRAR è il sistema anche qui dell'accoglienza solo di profughi e rifugiati, meno di un terzo del totale dei 90.000 che è l'ultima certificazione di chi avevamo nelle strutture. E se a questo aggiungiamo quelli che hanno le convenzioni con i comuni per i centri di assistenza straordinari, diciamo così, ci aggiungiamo i costi di esercizio che stanno in bilancio a Marina, Aeronautica, Guardia Costiera, Forze dell'Ordine, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, ci aggiungiamo i soldi, questi sono stornati nei diversi fondi del Ministero della Difesa, ci aggiungiamo i soldi, molti, che prendiamo dalla Farnesina, sempre per affrontare l'accoglienza, il salvataggio dei migranti. Un conto preciso di questa roba in Italia non c'è. Io ho fatto un conto, ho fatto una stima per il 2015, nessuno ha smentito, che arriva a una cifra molto consistente, arriva a superare i 2 miliardi, quasi a sfiorare i 3. Detto tutto questo, iniziamo a capire un pochino come stanno le cose dopo le informazioni sul traffico. Della belva. Eccoci tornati in diretta alla compagnia dei conti della belva. Abbiamo iniziato a riflettere su questo tema della svolta europea in corso sui profughi migranti. L'Italia resta con il problema dei migranti economici, però che sono maggioritari nei suoi flussi. Il problema della Libia resta aperto. Vedremo su questa eccezione al patto di stabilità che tipo di spese per i profughi, per i profughi e i migranti, alla fine l'accordo europeo integrerà. Iniziamo con, però, con i nostri due ospiti. Abbiamo con noi il prefetto Mario Morcone, che è capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. Buongiorno e grazie di essere con noi, prefetto. Buongiorno a voi. E il professor Maurizio Ambrosini, che insegna sociologia dell'immigrazione all'Università degli Studi di Milano e scrive anche sulla voce.info. Grazie professore Ambrosini di essere con noi. Buongiorno, grazie dell'invito e un saluto al prefetto Morcone. Allora, prefetto, quando noi diciamo con preoccupazione che in realtà il più dell'attenzione europea sta andando sul giusto problema di chi ha diritto di asilo, ma il più del problema italiano sta nei migranti economici, secondo lei facciamo un buon servizio all'Italia a fare questa riflessione o sbagliamo e bisogna andare per gradi, iniziamo a ragionare prima sui profughi e poi sui migranti? Sono molto perplesso, l'ho detto anche in altre occasioni, su quest'idea molto francese dei migranti economici, nel senso che esistono migranti che hanno naturalmente delle sofferenze che rappresentano delle commissioni e le commissioni stabiliscono se hanno diritto o meno alla protezione internazionale. Se leggiamo l'articolo 10 della nostra Costituzione o anche le direttive europee che abbiamo recepito anziché la Convenzione di Ginevra, lei potrà vedere che non esistono categorie nazionali. Certo. È chiaro, lo sappiamo tutti, che i siriani sono quelli in questo momento in particolare sofferenza, come anche gli eritrei per altri motivi, ma anche sugli eritrei si potrebbe discutere. Ma nulla esclude che ci sia un nigeriano perseguitato per motivi religiosi, anziché un iracheno o un afghano per lo stesso motivo. Poi ci sono certamente fasce di persone che tendono l'avventura, insomma, di un futuro migliore nel nostro paese, ma sono comunque sempre soluzioni e situazioni individuali di persone che rappresentano le loro ragioni e che vanno valutate indipendentemente dalla nazionalità e dalla provenienza geografica. Quindi lei dice non formalizziamoci troppo, è meglio comunque la svolta in corso? Noi abbiamo per esempio rifiutato di fare una lista dei paesi sicuri, sì. Cioè perché non esiste l'idea che poiché tu provieni da un paese che noi abbiamo dichiarato astrattamente sicuro, certamente non hai diritto alla protezione internazionale. Cioè il nostro approccio è un approccio diverso che affronta le situazioni individuali, persona per persona, e valuta se tu effettivamente rientri nei parametri della protezione internazionale oppure se tu sei una persona che pur naturalmente cerca legittimamente un suo futuro migliore, ma che magari non ha diritto alla protezione internazionale. Secondo lei questa può essere l'occasione anche per fare un po' di ordine? Prima parlavamo, per un'ora abbiamo parlato di le statistiche dell'economia italiana, il rischio che stiamo un po' trasmettendo l'idea agli italiani di non fidarsi di nessuno per le polemiche su ogni numero. Su una specie di bilancio consolidato di tutte le voci, che vanno comprese nel salvataggio e nell'accoglienza, che sono diverse da quelle dell'integrazione, come ovvio. Ma su questo, tra i fondi del Viminale, le convenzioni con gli enti locali, i comuni che dicono nel 2014 di aver avuto 250 milioni di spese proprie non rimborsate né da Roma né dall'Unione Europea, i soldi della Farnesina e quelli dei diversi bilanci di esercizio della difesa, secondo lei la svolta europea aiuta anche voi ad avere meno paura? Io capisco che fino a questo momento la prudenza di fare un conto unico sia stata quella di voler evitare polemiche politiche infuocate, visto che la politica su questo usa toni terribili, ma stavolta è l'occasione buona o no? Io ci spero molto. Lunedì saremo a Bruxelles e capiremo evidentemente qualcosa di più. Noi abbiamo detto e continuiamo a insistere sul concetto che responsabilità e solidarietà vanno insieme, e quindi vogliamo capire sul piano della solidarietà che cosa l'Europa e la nuova agenda Juncker mette sul tavolo. Mi permette però di tornare un attimo indietro rispetto alle spese. Ora, io onestamente non sono in grado di mettere in discussione diciamo il ragionamento che lei ha fatto, che ci porta verso i 3 miliardi. Le posso dire però con certezza quello che spendiamo noi. Noi l'anno scorso abbiamo speso 635 milioni, che comprende anche le spese dello SPRAR, esatto, quindi dei comuni. Sì. E quest'anno, lo dico con molta coraggio, certamente andremo verso il miliardo, perché è chiaro che, esatto, le persone sono aumentate. Detto questo, non faccio fatica a capire le spese che i comuni ritengono di aver sostenuto e non essere state rimborsate, perché non ne conosco, e faccio fatica a capire perché, al contrario, il trasferimento di risorse che noi facciamo verso i comuni per lo SPRAR è al contrario un elemento che arricchisce il welfare comunale e non lo impoverisce. E così faccio un po' più fatica pure a capire le spese diciamo dei mezzi navali, eccetera, che mi pare siano sostenuti da fondi europei. Su questo adesso, non è, io ho spiegato lì la metodologia che ho seguito, e tra l'altro non ho alcuna pretesa ovviamente di dire che quello è l'ammontare vero, so solo che guadagneremo in trasparenza e credo anche peso specifico nel confronto europeo a fare un conto consolidato comune, perché per esempio l'ANCI mi dice, ha giurato, ma l'ho detto pubblicamente, a loro risultano 240 milioni, stiamo parlando dei conti 2014, 240 milioni di ordini di grandezza annuale di spese non coperte aggiuntive, e andando a grattare nei bilanci di esercizio della difesa si trova anche lì un ammontare molto rilevante non coperto dalle missioni europee. Io credo che questa sia l'occasione per non vergognarsi più, perché io capisco che non lo si è fatto per evitare, insomma, che Salvini poi saltasse su e dicesse eccetera eccetera. Io penso, proprio alla luce, e intanto ringrazio il prefetto Morcone per quello che ci ha detto, alla luce di un ragionamento, caro Alberto, che noi dobbiamo fare, parliamone con il professor Maurizio Ambrosini, cioè questa è l'occasione per capire l'Europa se vede questa questione dei profughi, di coloro da integrare eccetera, come un'occasione economica e non più come una spesa corrente, come dire. Beh, sai, io la vedo così, e poi sentiamo Ambrosini. Per me questa questione dei migranti, invece che diventare una cosa da cui difendersi, potrebbe essere l'occasione per l'Europa per rimettere in moto il motore del capitale umano che sta spegnendo, perché invecchia, perché ha paura. Investimenti in capitale umano. Esatto, io la vedo così, io coglierei l'occasione per dire, ah sì, ma veniteci in Europa, vi facciamo, non ponti d'oro, ma le città, i quartieri, i piani industriali, per farvi dire i migliori. Certo, vorrei, e qui distinguere tra profughi, che sono un problema politico, non morale, scusate, politico, sono un problema di qual è il perimetro della nazione e qual è il concetto di, come dire, di accoglienza politica. Gli immigrati, che sono un problema professionale ed economico, e più che un problema sono un'opportunità straordinaria, e qui i tedeschi l'hanno capita molto bene, e magari ne parliamo tra poco, e i clandestini, che invece sono un problema di ordine pubblico, al quale passo la parola al professor Morcone, gli chiedo occupatene perché voglio garantire la legge. E io a Ambrosini chiedo invece di parlare del secondo gruppo, cioè gli immigranti economici, e della possibilità che l'Europa ha, e lui in parte l'ha scritto su lavoce.info, di rivedere la sua politica del lavoro, della previdenza e della produttività. Naturalmente, questo io lo condivido, sappiamo che perdiamo l'elezione se lo diciamo. Io, diciamo, non importa. No, la mia risposta è un'altra. Il problema è che le perdiamo se non riusciamo a spiegarlo. Esatto, siamo qui per spiegarlo. Punto. Invece sono talmente convinto di aver ragione di fare l'interesse del futuro dei nostri figli e dell'Europa a dire l'Europa prende una decisione completamente diversa dal senso comune e dica gli immigrati sono la più grande opportunità. Sentiamo Ambrosini come la pensa. Professore, sbagliamo noi? Ma bisogna distinguere diverse categorie di migranti, come voi avete fatto giustamente, mi sembra, in questo dialogo. Un conto sono i migranti che arrivano per asilo e che vanno protetti ai sensi delle convenzioni internazionali, della Costituzione, l'ha già richiamato il prefetto Morcone. Qui mi limiterei a dire che l'86% dei rifugiati sono accolti nel terzo mondo, in Europa ne arriva sì e no il 10%, i più fortunati, spesso i più attrezzati. Quindi l'idea di un'invasione a livello mondiale, a livello macro, non è vera. L'Europa, i paesi sviluppati si sono difesi benissimo dall'arrivo dei rifugiati. Semmai negli ultimi tempi non stanno più tenendo i meccanismi di contenimento, per esempio i campi profughi in Turchia o i sistemi di accoglienza più o meno efficaci in Libano, in Giordania, in Kenya e in altri paesi. Altro conto sono i migranti che arrivano per lavoro e qui ricorderei che in Italia ci sono studi come quelli della Fondazione Moresta che ci dicono il saldo è positivo. Il saldo è positivo, cioè, lo spiego a casa, il saldo positivo significa che se mettiamo nella prima colonna le imposte e i contributi dei migranti regolarmente al lavoro nel nostro paese e mettiamo nell'altra colonna le spese ordinarie, la spesa corrente pubblica che per sanità, welfare eccetera è destinata ai migranti economici regolarmente al lavoro in Italia, la Fondazione Moresta dice nell'ultimo bilancio la prima colonna fa 16 miliardi, la seconda fa 12 miliardi di rotto, cioè ogni anno c'è un saldo positivo che viene all'Italia dai migranti economici regolarmente al lavoro di 3-4 miliardi. Se pagano le tasse come no, facciamo no, noi. Ma questo però il politico che urla non lo ricorda mai. Certo. Il politico che urla come si spiega il problema dell'equilibrio demografico dell'Italia con i nostri tassi bassissimi di sostituzione demografica non lo spiega mai. Allora il problema è che questa integrare ha un costo aggiuntivo, sì, ma se è visto come un investimento sul capitale umano per formare capacità di lavoro, per formare capacità di consumo, per formare capacità di avere tasse e contributi, questa roba qua, se spiegata così, diventa un'altra cosa. Beh, poi non dimentichiamoci che in un mondo sempre più globalizzato il avere persone in azienda con diverse mentalità è una ricchezza. Lo so, questo è un difficile compito però che noi dovremmo darci. Oggi su Sole lo scrive. Bastasin lo scrive. Germania ha capito che questi 3 milioni di migranti professionalizzati, che poi in Germania ci vanno per selezione positiva i migliori, sono un aumento del 4% della propria forza lavoro, che invece erano i problemi storici della Germania, che aveva una tendenza strutturale a perdere capacità di lavoro, sono occasione storica per fare un piano Marshall della capitale umano. E qui sentivo Ambrosini che lo ha scritto questo, certo. No? È una grande prospettiva che va però collocata e spiegata. Allora, secondo me dobbiamo prenderci questo compito sapendo che noi riceveremo schiaffi dai nostri ascoltatori, però bisogna avere la convinzione che questo è uno dei grandi temi su cui andare un po' controcorrente. Non significa chiudere gli occhi di fronte ai problemi dell'ordine pubblico, eccetera, eccetera. Significa un'altra prospettiva in cui distinguere gli interventi di ordine pubblico, il fatto che non vanno concentrate in aree troppo elevate, le presenze ovviamente rispetto a aree di italiane a reddito basso e così via, ma distinguendo anche le priorità che sono fondamentali. Però se posso dire con la parola secca contro la xenofobia, ma anche a favore dell'ordine dello Stato di diritto, perché così come non mi va il moralismo, perché come dire, l'asilo è un fatto giuridico, non morale dal mio punto di vista, non mi va assolutamente la xenofobia, in compenso pretendo che lo Stato di diritto mi faccio dire non faccia entrare chi non ha titolo di entrare, esatto. Questo mi sembra giusto, no? Allora intanto grazie al prefetto Morcone, grazie al professor Ambrosini, noi torniamo tra poco con un altro punto, arriva la legge di stabilità, che succede sui prepensionamenti? Ci saranno come ci avevano spiegato oppure non ci saranno come il governo adesso dice? A tra un minuto. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta alla compagnia dei Conti da Belva. Renato, caro Alberto, Mario e Oscar in diretta su Radio 24. Dopo questa lunga pausa pubblicitaria, andiamo tra pochissimi secondi a una rubrica che terremo fino a che c'è la legge di stabilità, per capire, e iniziamo con una riflessione su prepensionamenti, sì o no, visto che sembrava che una parte del PD in Parlamento fosse totalmente favorevole poi i progetti già depositati di Cesare Damiano, smontare la Fornero per la staffetta generazionale. Il ministro Poletti si dice favorevole, il sottosegretario Baretta dice sì, ci siamo, lo faremo anche in deficit, eccetera eccetera. Il governo pare che abbia cambiato idea. Abbiamo Cesare con noi, Damiano con noi tra poco, per chiederglielo, perché non lo vedo. È collegato, ragazzi? Ah, è collegato perché non è apparso sul ma adesso mi dicono che è collegato. E partiamo proprio con onorevole Cesare Damiano per capire se risulti a lui vero quello che i giornali hanno scritto, cioè che il governo ha detto stop dopo che un ministro Poletti e un sottosegretario Baretta avevano detto sì, e aderiamo anche alla linea che debbano essere non con tagli al rapporto previdenziale parametrati al pieno recupero del costo aggiuntivo, ma quindi si possono fare anche in deficit. Sappiamo, lo dico per informare e ricordare definitivamente chi è in ascolto, che c'è stato anche un confronto tra lei e Tito Boeri, presidente dell'INPS, che dicevano no, bisogna farle con la piena equiparazione dei conti, quindi chi vuole andare via prima ci vada, ma si becca il pieno taglio perché ci sia un equilibrio attuariale di lungo periodo e non ci sia un aggravio del deficit. Lei ha risposto a Tito Boeri dicendo i conti di Boeri sono troppo pesanti, perché lui conta che tutte le classi interessate scelgano le ipotesi. Non sarebbe così, ma comunque vediamo prima di fasciarci la testa, se non che il governo ha fatto scrivere ai giornali non se ne parla proprio. In realtà, onorevole Damiano, A, come stanno le cose, gli risulta che stanno le cose, B, cosa prevede che avvenga davvero poi in aula, anche se il governo non dovesse più essere dell'idea di cui i membri del governo avevano detto di essere diventati. Buongiorno e grazie, ci chiarisca le idee. Ma intanto mettiamo un po' d'ordine, perché vedo che c'è una grandissima confusione. E questa è la premessa per cui ne parliamo. Prima questione. Allora, il confronto avvenuto tra la Presidenza della Commissione Lavoro, quindi con tutti i partiti di maggioranza e di opposizione, e di tecnici del Ministero del Lavoro, del Ministero dell'Economia e dell'INPS, c'era il Presidente dell'INPS, era un incontro con i tecnici. In quell'incontro i tecnici del Ministero del Lavoro hanno concordato con la nostra posizione. Ho avuto modo di parlare con il ministro Poletti, che conferma quello che noi sosteniamo, vale a dire che il fondo che abbiamo costituito attraverso un'apposita legge ha un fondamento. Il fondamento è che le risorse confluite, 11 miliardi e 600 milioni che serviranno a salvaguardare 170 mila persone, mano a mano che vengono spese, hanno una rendicontazione annuale prevista dalla legge che è stata fatta quest'anno, la quale dice quanto abbiamo speso rispetto a quello che dovevamo spendere, quante persone sono state salvaguardate. La rendicontazione INPS ci dice che rispetto ai primi 6 miliardi allocati per le salvaguardie, noi abbiamo un avanzo di 3 miliardi e 3, un po' più della metà, sì. Quindi un avanzo enorme, di qui al 2023. Noi abbiamo detto che questi avanzi ci servono per salvare altre persone, perché se c'è una sovrastima di una famiglia di esodati, c'è una sottostima di un'altra famiglia, facciamo il trasloco delle risorse, perché sta tutto all'interno del fondo. E abbiamo detto utilizziamo una quota di queste risorse anche per risolvere il tema della cosiddetta opzione donna. Inaspettatamente i tecnici, non il ministro, i tecnici del ministero, hanno detto i soldi risparmiati nel 2013 e 2014 sono perduti perché non li avete spesi, cosa che contraddice la legge, anche Poletti su questo mi dà ragione. Nel 2015 si dice che ci siano 800 milioni a disposizione, lo dice l'INPS, ma noi li dobbiamo certificare. Allora, io rifiuto questa interpretazione, è un accanimento contro i lavoratori che devono andare in pensione, non è accettabile. Quindi noi chiediamo una cosa banale, che si rispetti la legge, per cui non vogliamo più rimanere nel confronto con i tecnici, vogliamo un confronto politico con i politici, quindi un confronto con Poletti e con Padoan che risolva la situazione, perché altrimenti si apre un conflitto molto forte con il Parlamento e con il Paese, anche perché i sindacati che abbiamo audito sul tema della flessibilità hanno detto che loro ci fanno conto su questa soluzione. Ah, no, no. Loro sono donna e settima salvaguardia. Esplicitamente a favore. E cioè, noi anche, perché per noi è una battaglia di dignità e soprattutto vogliamo che sia rispettata la volontà del legislatore del Parlamento. Se c'era un'obiezione circa la congruità della norma, bisognava che i tecnici delle finanze ce la dicessero in quel momento. Non è che si fanno fare le leggi perché poi diventano delle trappole attraverso interpretazioni che negano lo spirito della legge. Allora, sentite che il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, deputato del PD, è molto fermo nel dire: ragazzi, il problema non è risolto. Non è che il governo ha detto no e non si fa più. Quindi, A, aspettiamo di vedere cosa c'è scritto nella legge di stabilità. B, aspettiamoci su questo. Avete capito le premesse sono complesse e sono formalmente fondate in coloro che sostengono la posizione del Presidente Damiano, tutti i sindacati tra l'altro, un problema non secondario per il PD e per il Premier. In ogni caso, in aula si riparte da queste posizioni. Uno dei tanti temi su cui la legge di stabilità ci spiegherà che cosa per alcuni milioni di italiani alla fine avverrà, perché l'incertezza su queste cose, non ve lo devo dire io, scelte vitali fondamentali nel proprio orizzonte tra lavoro, consumo e risparmio, e resta appesa a quello che poi alla fine la politica deciderà, ma avendo, come vedete, all'interno dello stesso partito, addirittura non solo nella stessa maggioranza, nello stesso governo, idee molto diverse, diciamo così. Grazie onorevole Damiano per questo chiarimento, noi torniamo tra un minuto. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, eccoci tornati qua in diretta per questo ultimo blocchetto, ma insomma qualche sms su questo tema su cui abbiamo assunto una posizione sull'immigrazione non proprio di quelle mainstream popolari, diciamo così, c'è arrivato che... Ma noi non siamo mai mainstream. Ecco, questo sì. No, ci dicono che continuiamo a vivere nel mondo dei sogni perché l'Italia non è la Germania, lo sappiamo, ma intanto si parla di Europa e poi l'Italia è molto più simile su alcuni aspetti del manifatturiero a un pezzo di Germania, anche se magari indietro 5 anni sul processo, e comunque farebbe bene da un certo punto di vista studiare bene la scelta della Germania a farlo. Poi c'è il solito modello un po' superato. Ma quale Italia? Ma soprattutto, scusate, voglio dire, noi spendiamo, secondo me, quanto la Germania prima, senza dirlo, perché ripeto, certo, non c'è un conto consolidato su cui fare i conti. Forse questa è l'occasione per capire, rispetto a quello che spendiamo e spenderemmo, quanto di questo è una spesa corrente buttata via? Quanto può essere un investimento in vista di che ritorno? Questo è il ragionamento da fare, cari ascoltatori. Esatto, è far uscire questo tema dal moralismo da una parte, dalla xenofobia dall'altra, e farlo rientrare in una corretta analisi organizzativa. Per me, diventare uno dei posti più attrattivi al mondo per migranti di qualità, allora, molto intelligente, si chiama America... In un altro linguaggio e in un'altra epoca, questa è la vera. Anche l'Inghilterra, d'altronde, proprio in questi minuti l'Inghilterra si darà il leader dell'Ebor, Jeremy Corbyn, il più marxista, tassaro statalista proveniente dell'intera storia dell'Ebor, perché batte persino i leader degli anni 70. Che cosa questo vorrà dire per la sinistra europea italiana? Lo scopriremo. Secondo me i Tories lo vedono come un grande regalo, ma in Italia voi leggerete un mucchio di pagine su quanto aveva ragione Corbyn, bisogna alzare le tasse, bisogna rinazionalizzare tutto, perché queste sono le sue proposte. Lui è per l'uscita dalla NATO, monetizzare, viva il deficit, Hamas, viva gli Hezbollah, bisogna monetizzare tutto il deficit, diventerà una delle scelte di Bagnai. Mi è sfuggito il passato remoto del... No, ma vedrai che se la cavano gli inglesi. Massimo da Padova vuole intervenire. Massimo. Ma buongiorno. Sì, relativamente a questa ondata migratoria. Sì. Già da noi qua stanno cambiando un po' le cose. Per esempio, tante ragazze musulmane che in passato potevano girare senza velo, oggi sono costrette a indossarlo. C'è un giro di vite più fondamentalista, lei dice. Esatto, quindi purtroppo l'immigrazione o l'emigrazione che c'è stata nostra verso gli Stati Uniti, tedeschi verso gli Stati Uniti, avevano anche una cultura simile. Il multiculturalismo non esiste. perché c'è integrazione o disintegrazione. Vediamo i giovani che si convertono all'Islam, che si fanno saltare in aria. No, no, ma questo lo capisco. Però guardi, la storia italiana è piena. Per decenni gli italiani in America erano considerati alla stregua di come noi consideriamo gli immigrati nordafricani. Guardi, io ho un pezzo della strada della mia famiglia di immigrati lì, quindi posso garantirle che le condizioni in cui vivevano a Canal Street, eccetera, eccetera, non erano esattamente quelle. Quarantena quando arrivavano. Ma anche i gastarbeiter italiani in Germania è stato così, i turchi in Germania e così via. Però detto tutto questo, è ovvio che è giusto riflettere anche sulla ritenere in cui ad alta concentrazione. Allora, Renato, siamo arrivati al tuo appuntamento settimanale sul Non si può fare. Cosa ci proponi questa volta? Io sono un cittadino che pago le tasse. Lo Stato mi deve proteggere. Voglio i carabinieri, la fanteria, i bersaglieri. Andiamo, non esageriamo, signor Bonocore. E non alziamo la voce. Eccoci qua, nell'ideale Totò è il nostro Renato. No, allora, questa settimana ne ho individuate due. Una è una cosa di oggi, che mi fa venire l'itterizia. Perché io tutte le volte che leggo TAR del Lazio, e oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore, appena l'ho aperto, c'era il TAR dei Lazio che dice che la protesta può bloccare le opere. E quindi che se un comune a metà dell'opera, siccome la gente si lamenta, metà dell'opera significa ha fatto un bando, ha aggiudicato i contratti, c'è un'impresa che ha iniziato a lavorare, tutto in regola con il lunghissimo processo per fare un'opera pubblica nel nostro paese, se a quel punto i cittadini dicono ma cosa stanno facendo lì, a me non garba. Il comune dice, ah no, i cittadini sono quelli che mi votano e quindi do retta ai cittadini, annulla l'opera ed è tutto legittimo. Allora, voi pensate a una cosa del genere ribaltata su uno straniero, qualsiasi che vuol venire ad investire in Italia. Cioè, sapere che a metà di un'opera il vicino riesce a organizzarsi con altri 50 vicini e dice quel muro lì della fabbrica è troppo alto e mi rompe le scatole. E il comune dice, ah sì è vero, il muro è troppo alto, invece di fare la fabbrica alta 8 metri fatela alta 6. Adesso dico una cosa, certo. Che potrebbe capitare, no? La cosa pazzesca di questa sentenza è che riconosca il fondamento per annullamento di contratti a privati fatti secondo il troppo lungo iter italiano per la mutata opinione politica o anche solo per la pressione politica. Certo, un diritto di veto così alla demagogia più spicciola. Perché in questo caso non è neanche che hanno fatto le elezioni e cambiato, no, è la stessa giunta che dice però il nostro elettorato ci esprime non questa gli piace. Idea. No, soprattutto poi in un paese come il nostro dove molto spesso queste decisioni qua non sono prese, come si diceva prima, in base ai dati, vengono prese in base alla... E quindi su questo primo esempio la mia sanzione è questa. Basta! Basta! Ecco, dai, invece, la verità che stai cercando di risparmiare la voce, te la sei fatta registrare. Secondo esempio. Senti, invece il secondo esempio è molto divertente, perché vabbè, fra le mille circolari che tutti noi che facciamo questo mestiere di imprenditore riceviamo, una mi ha colpito la settimana scorsa, che è la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 76E del 28 agosto, la quale, poi se vuoi come al solito te la leggo perché è molto divertente, ci mette tre pagine a spiegare perché l'aliquota IVA applicabile alla cessione della carne di quaglia congelata è il 10%. Il tutto perché noi siamo in un paese dove è noto che è tutto vietato tranne quello che è permesso, e siccome nell'elenco dell'aliquota IVA del 10% c'è scritto il coniglio, il coso, cioè, e non viene citata la quaglia, allora ci sono tre pagine che spiega che la carne di quaglia congelata è assimilabile, caro mio, nel altre. Caro mio, allora, tanto per dirne una, voi sapete che il 30 settembre c'è questa scadenza, non proprio secondaria, non riguarda nessuno di noi a questo tavolo, però riguarda un'aspettativa molto elevata del governo per fare la sua legge di stabilità, perché il 30 settembre è la scadenza del termine per fare la voluntary disclosure, e il governo, quella è un'altra roba, vedrete nella legge di stabilità, su cui conta di fare miliardi, ma tanto adesso aumenta il deficit fino al 2,9%, però detto questo, la scadenza è il 30 settembre, io faccio una scommessa, spero di non perderla, e lo spero nell'interesse dello Stato, Stato saranno costretti a prorogarlo il termine, anche se l'agenzia dell'entrata ieri ha smentito, perché la quantità di circolari interpretative che hanno fatto tra fine luglio e agosto, un mese prima della scadenza, che rivoluziona e obbliga a ricominciare da capo per alcuni aspetti fondamentali per un contribuente che volesse approfittarne di questa facoltà, è tale che viene da chiedersi come diavolo funzioni questa agenzia delle entrate, che aspetta la scadenza di un termine molto atteso dallo Stato per incassare molti miliardi per intervenire su punti decisivi di fronte ai quali il tuo commercialista dice no scusi, dobbiamo ricominciare da capo. Ecco, questo è lo Stato di fronte al quale noi diciamo basta. Però detto questo, vedremo se ha ragione Renzi. Sveglia, la crisi è finita, intanto siamo alla fine di questa prima puntata, un saluto da tutti noi, continuate con la 24, ci vediamo sabato prossimo alle 10 alle 12. Io ho finita la festa.